l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddei, 8 minuti dopo le 12 in diretta con l'altra Europa, il nostro appuntamento settimanale con l'Europa delle storie, delle persone, delle opportunità. Euronetplus.eu, il portale del network al quale apparteniamo, e come sempre vi invito a dare un'occhiata a tutti gli articoli, i servizi, gli approfondimenti in tante lingue diverse per raccontare questo percorso comune che si chiama Europa. Le coordinate invece per trovarci anche virtualmente: Euronet Plus R24 oppure chiocciola Federico Taddia su Twitter e su Facebook, le nostre bacheche digitali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Come sempre tante storie, ma anche oggi tanta musica live qui dagli studi di Radio 24 con Zenith. Try to find it yours. Talking now, talking loud. Try to see you the show. Started to wish you would go. You're kinda cute though. Trying to hear the guitar, then you are again in my ear, whispering at the top of your lungs. Why you trying to drown up the drums? You're making too much noise. Just shut up. Rock me up, let the needle drop. Shut up and rock me up, let me be on top. If you wanna get me hot, then why don't you stop talking at me? Yours, talking at me, stop talking at me. Just shut up and rock me up. Ciao Zenith, benvenuta all'altra Europa. Buongiorno, ciao Federico, ciao a tutti quanti. Una bellissima storia quella che ci accompagnerà in questa puntata con Zenith, cantante italo-eritrea, ma soprattutto bolognese. Bravo, bolognese, quindi sono tua più o meno compaesana, giusto? Esatto, ah. Però appunto con questo background e questo presente assolutamente europeo, fra pochissimo suonerai a Parigi, insomma andremo a scoprirti insieme. Salutiamo anche Lele Leonardi che ti accompagna qui alla chitarra. Questa è l'altra Europa, ma iniziamo subito camminando per la nostra Europa e lo facciamo insieme a Giacomo Frison, protagonista di un bellissimo progetto dal nome evocativo Altri Piani. Ciao Giacomo. Buongiorno, ciao Federico. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Altripiani.org, di cosa si tratta? Altri Piani è un progetto molto semplice che mette insieme le mie passioni, prima di tutto di fotografo e poi di appassionato di montagna. Tratta molto il sociale e le persone, e quindi viaggiando si va a conoscere per le montagne la storia delle persone che abitano certi luoghi. Tu hai camminato e hai scritto anche in collaborazione con l'Osservatorio Balcani e Caucaso, perché sono quelle un po' le zone europee che ti piace esplorare. Sì, c'è stata una prima linea, noi le abbiamo chiamate così linee, una traccia che ha fatto tappa per Turchia, Georgia, Armenia e Iran nel 2015, e quest'anno invece abbiamo fatto una traccia un po' più vicina a noi, all'Italia, nei Balcani, ma più esattamente nei Carpati. Quindi abbiamo attraversato Polonia, Slovacchia, Ucraina, Romania e Bulgaria, sempre lungo la linea verde dei Carpati. Cosa significa tracciare nuove linee? Ci sono altre Europe poco narrate, poco raccontate? Sì, la curiosità del progetto è appunto stare dentro una linea di montagne, e quindi ci sono spesso sentieri, però non sono mai così lunghi, così tracciati in queste altopiani e montagne. Quindi l'idea di tracciare una nuova linea è fare un percorso alternativo, nuovo, per conoscere e poi essere piccoli testimoni di persone che vivono ancora in villaggi e altopiani. Cosa si porta a casa da questi viaggi? Che poi è qualcosa che insomma va oltre il viaggio, no? Forse il viaggio è una parola anche troppo semplice, troppo limitata per descrivere quello che fate. Sì, perché il viaggio alla fine è solo una piccola parte del progetto, perché il progetto nasce a casa, studiando, andando per archivi, consultando le mappe, e quindi il viaggio è solo il desiderio finale. Però poi c'è anche tutto il lavoro di ritorno, quindi il viaggio è tutto l'anno. e si portano a casa delle belle esperienze, delle belle testimonianze che spesso bisogna mettere in ordine, perché è molta confusione quando finisce una linea, quando finisce un viaggio, insomma, c'è molta confusione. Giacomo, in questo camminare si trovano confini naturali, che sono i fiumi, che sono le montagne. Esatto. E qual è poi il tuo rapporto invece con i confini reali in questa stagione anche di muri e fili spinati? Non è semplice, perché comunque anche se si va per dei posti di natura dove in teoria i confini non esistono, si è sempre con il passaporto alla mano e non si è mai convinti di cosa succederà ad ogni frontiera. Noi, il nostro ideale principale, parlo di un noi perché sono sempre in coppia con qualcuno in questo viaggio, l'idea è di andare oltre tutti questi confini che si è creato un po' l'uomo, insomma, che in verità vicini di villaggio hanno culture più simili di quello che si pensa, insomma, da villaggio a villaggio. Ci sono delle cose che ritornano sempre. Altripiani.org è il portale dove conoscere l'intero progetto. Cos'hai in programma ora, Giacomo? Adesso noi in quest'autunno e inverno stiamo portando in giro un po' il progetto per proprio testimoniare e raccontare le storie di queste persone che abbiamo incontrato lungo l'ultima linea nei Carpati. E nel prossimo anno ci sarà sicuramente una nuova linea, che potrebbe essere o il Marocco sull'Alto Atlante, oppure staremo più in Italia, nell'interno della Sardegna. Dipenderà anche molto dalle tempistiche che avremo, la possibilità di prenderci queste pseudo vacanze. Altre contaminazioni, quindi, con altripiani.org. Un grazie a Giacomo Frison, buon lavoro e buone tracce. Ciao Giacomo. Grazie. Ciao. Adesso ci fermiamo, un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa. Europost-it. Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Attenzione, appassionati di ambiente! Dal 19 al 27 novembre torna la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Il tema di quest'anno sarà la riduzione dell'impatto degli imballaggi tramite la diminuzione, il riuso e il corretto riciclo degli stessi. La settimana è un'iniziativa della Commissione europea e ha l'obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e i consumatori sulle strategie e le politiche di gestione dei rifiuti delineate dall'Unione europea. Pubbliche amministrazioni, associazioni e organizzazioni no profit, scuole, università, imprese e cittadini organizzeranno azioni volte a prevenire o ridurre i rifiuti a livello nazionale e locale. Per conoscere tutte le iniziative e trovare quelle più vicine a voi, visitate il sito menorifiuti.org. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta L'Altra Europa. Eccoci qua ancora in diretta, @ Federico Taddia. Ci trovate su Twitter, lì trovate tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando, come per esempio senitradio.com, che è la web radio di Senit, oggi ospite qui all'Altra Europa. E ci fai concorrenza, visto? Esatto. Senit, sei presentata come una delle tra le più internazionali delle artiste italiane, no? Ti piace? Mi piace molto come... Soprattutto internazionale. Che è una di quelle parole che a noi viene facile, viene no? Insomma, tu sei una contaminazione culturale, no? Tra l'altro, mi spieghi bene questa cosa del cognome, che prima fuori onda mi dicevi, no? Senit Zadik Zadik. Allora, questo, Zadik Zadik è il mio cognome. In Eritrea, perché appunto ricordo che sono eritrea, ma sono nata e vivo a Bologna, si fa così. Senit è il nome, anzi in verità è Senhit, perché c'è l'H in mezzo, quindi deve avere anche un'inflessione un po' calabrese. Sì, Senhit. Okay. Zadik Zadik è il cognome ed è il nome di mio papà. Zadik Zadik è il nome di mio papà, poi mio papà di cognome si chiama Gebregziavier. Quindi mio nonno si chiama Gebregziavier di nome, Woldemichael di cognome. Cioè noi prendiamo come cognome il nome del papà. Una grande filastrocca, no? Sì, tutto l'albero. Quindi tuo figlio si dovrebbe chiamare Taddia di nome. Ah sì? Sì, Adesso glielo proporrò. Esatto. Senit, che cos'è per te l'Europa? Secondo me è un gran bellissimo continente. Io ho girato tantissimo, fortunatamente un po' per lavoro ma anche tanto per piacere, e torno sempre molto volentieri in Europa, soprattutto in Italia, soprattutto a Bologna. È un grosso contenitore di opportunità. Poi è ovvio che, sai, adesso senza nulla togliere all'America, all'Africa, tra l'altro da dove provengo, però c'è un bel giro, c'è un bel vibe, come dicono qua, in stile musicale. Mi piace molto. E per te anche un grande palco, sede attualmente di questo tour europeo, dove hai già fatto qualche tappa. Sì, sì, sì, abbiamo già fatto, abbiamo cominciato dall'Italia, poi abbiamo finito la tournée estiva con Amsterdam, quindi inaugurando la parte europea, e la settimana prossima parto per nuovamente il tour europeo autunno-inverno con Parigi. Parigi, Londra, Madrid, Bruxelles, Amsterdam, tutta Europa, e poi piano piano ci spostiamo sempre più fuori. Ne parlavamo proprio sabato scorso con Niccolò Fabi, che anche lui era in procinto di suonare a Parigi. Con che spirito, con che emozione ti si avvicina a Parigi? Come... Beh, con una grandissima emozione, anche con una, come dire, sincera ansia, anche perché è il mio primo tour europeo. Tra l'altro Parigi, sappiamo benissimo che, insomma, ha avuto purtroppo ultimamente un po' di, come dire, problemini, e quindi sono anche molto, mi sento anche molto privilegiata, mi sento anche molto grata di poter fare questa cosa a Parigi e per Parigi. Quindi sì, sono emozionatissima, sono molto agitata, non ti nego, però sono carica, siamo tutti pronti, sintonizzatissimi, e quindi sarà un ottimo debutto, ecco. Adesso sono propositiva e nel frattempo mi tocco, perché magari succede qualunque cosa. Vai, facciamo un pezzo che credo sia un pezzo particolare, perché introduce, sì, perché un anticiperà nuovo progetto, tra l'altro, vero? Esatto, l'album che uscirà quest'altr'anno, che si chiamerà Hey Buddy. Il pezzo si chiama Higher e adesso te lo cantiamo. Grazie. Con Lele, il grande Lele alla chitarra. Leonardi, l'ho preciso, perché poi abbiamo anche il batterista veronese che si chiama sempre Lele, allora non è che... It's like you've been digging out a hole for the future, gripping plenty at your headstone. You think that you've been hit by an electromagnetic wave, you're grooving your backbone. I know you're feeling low, aren't you like an animal, or do you been kicked around? Why is all the world speaking so telepathically, we're speaking like a flash food? Don't you wanna take a jet plane? Don't you wanna live it higher and higher? I know you wanna map your escape. Everybody's getting higher and higher. Ooh, ooh, ooh, higher and higher. Why are you so afraid to leave your city on the East Coast? Maybe it's an ambush. Why you hesitate to give your love into the ones who make it more like carousel-ish? I know you're cornered, maybe you can start again. Don't replicate your past. You created such a crutch with your mental abnormality. Come on, cut away your cast. Don't you wanna take a jet plane? Don't you wanna live it? It's getting higher and higher, but don't you wanna take a jet plane? Don't you wanna live it higher and higher? I know you wanna map your escape. Everybody's getting higher and higher. Applauso. Grazie a Senite Lavi qui all'Altra Europa, senite.com, ricordiamo il portale dove grazie. Trovare anche tutte le date, informazioni, le date, qualunque cosa. Grazie Senite, colonna sonora di questa puntata dell'Altra Europa, dove ora invece andiamo a Venezia, dove si sta tenendo in questi giorni il festival per la terra presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, da un'idea dell'artista Maria Rebecca Balestra, studiosi autorevoli tutti insieme, ricercatori, creativi, anche artisti, per discutere di nuovi modelli sostenibili per il nostro pianeta. Tra i tanti ospiti c'è anche Sabina Airoldi, che abbiamo il piacere di avere qua con noi. Buongiorno Sabina, benvenuta all'Altra Europa. Grazie, buongiorno Federico, a te e a tutti gli ascoltatori. Sabina Airoldi dell'Istituto Tetis, direttore di un progetto europeo di ricerca a lungo termine sul santuario dei cetacei Pelagos nel Mediterraneo occidentale. Insomma, è il Mediterraneo il tuo luogo di studio, di ricerca e di osservazione? Sì, esatto. Io da 30 anni ormai mi occupo di cetacei e ho scelto e ho avuto la fortuna di avere l'opportunità con l'Istituto Tetis di dedicarmi al mio mare, perché pochi sanno che il nostro mare Mediterraneo in realtà proprio ci sono un sacco di cetacei, ci sono diverse specie di cetacei, da una serie di delfini alla grandissima balenottera comune, capodogli, insomma una straordinaria presenza che conoscono in pochi. E ce li abbiamo proprio davanti alle nostre acque della Liguria e della Toscana, proprio nel santuario Pelagos, per cui noi monitoriamo da ormai 30 anni per vedere com'è lo stato di salute di questi meravigliosi mammiferi marini. Sabina, ma 30 anni sono un tempo lungo, ma anche un tempo breve, ma un tempo dove si sono visti gli effetti dell'uomo sull'ambiente? Esattamente sì, Federico, perché proprio uno degli obiettivi principali per noi è quello proprio di monitorare, di capire che cosa sta cambiando nelle popolazioni dei cetacei, proprio come risultato dell'impatto che le nostre attività umane purtroppo hanno su di loro. Per cui abbiamo visto alcune specie come appunto diciamo l'emblema del santuario, la balenottera comune, che purtroppo è diminuita nelle acque del nostro santuario, e invece altre specie come il capodoglio o un tipo i delfini della Stenella, che è il più comune, che è aumentato, ma hanno cambiato distribuzione. Insomma, è chiaro ormai a tutti che l'impatto di tutte le nostre attività, l'aumento delle temperature, i cambiamenti globali e tutte le minacce che purtroppo sono su questi animali, questi animali subiscono, incostano loro dei profondi cambiamenti, sia a livello di comportamento, sia a livello proprio di uso dell'habitat. Sabina, ma c'è anche un indotto economico sostenibile legato per esempio ai cetacei? Assolutamente sì, insomma quello un po' che abbiamo discusso anche in questo festival è come trovare il modo, cioè esiste il modo per coniugare l'esistenza dell'uomo, la fruizione sostenibile dell'uomo con delle risorse naturali. Ecco, in questo caso, per parlare dei cetacei, che sono ovviamente delle specie carismatiche, chi non ama guardare un'enorme balena o un delfino che salta a prua, e quindi in questo caso il whale watching, cioè l'osservazione in mare, è un incontro con gli animali selvatici che veramente cambia la sensibilità di ogni persona che ha la fortuna di incontrare questi animali in mare nei confronti proprio della natura, ma va fatto in modo assolutamente sostenibile, quindi in modo che queste attività di osservazione in mare, quindi portare le persone fuori ad incontrare nel loro ambiente naturale balene e delfini, deve essere regolamentata, perché altrimenti potrebbe fare effetto boomerang, cioè potrebbe diventare un elemento di disturbo anziché di un elemento di ricreativo, sì, ma anche di educazione. Ed è chiaro che comunque per la comunità locale potrebbe essere un ottimo aiuto economico. Tra tutti questi cetacei hai qualche legame particolare? Ce n'è uno tuo preferito, perché magari l'hai visto più volte in questi 30 anni? Allora, io sì, ho due specie che, come dire, mi sono entrate nel cuore. La prima è il grampo. Il grampo è un animale che non conosce nessuno praticamente, è un grosso delfinide di 3-4 metri che sembra tutto graffiato, tutto con queste striature, è veramente quasi sconosciuto ai più, che io ho visto e di cui diciamo ho dedicato dal punto di vista scientifico gran parte del mio impegno, e purtroppo proprio questa specie è una di quelle che sta scomparendo dal santuario. Sono ormai 3 anni che quasi non lo si vede più ed è una, diciamo, delle specie su cui stiamo puntando molto la nostra attenzione per capire che cosa, quali sono le ragioni per cui sta scomparendo dalle acque del Mar Ligure occidentale. L'altra specie è il capodoglio, il Moby Dick che tutti conosciamo, il campione di apnea, un animale straordinario che può rimanere sott'acqua per quasi 3 ore senza respirare, raggiungere i 3 chilometri di profondità, pur essendo un mammifero come noi, quindi un animale straordinario, che invece negli ultimi anni è aumentato nel nostro, o meglio ne è aumentata diciamo la frequenza di avvistamento. Insomma, noi andiamo in mare e ogni settimana incontriamo questo straordinario animale, che peraltro si avvista veramente a pochissime miglia. Noi abbiamo la nostra sede a Sanremo e spesso usciamo da Porto Sole e dopo, ma veramente mezz'ora, siamo già in mezzo a 2-3 capodogli, e ci è sicuro che trascorrere 3-4 ore con questi enormi leviatiani è un'esperienza straordinaria. Ci credo. Tetis.org, questo è il sito per conoscere tutte le attività dell'associazione. Un grazie a Sabina Airoldi. Ricordiamo anche il sito del Festival della Terra, festivalfortheearth.com, nuove architetture, oceani e ghiacci, biosfere, foreste urbane, una residenza artistica in atto, insomma tantissime attività. Vi consiglio davvero di guardare l'intero programma perché è molto stimolante. Ciao Sabina, grazie, buon lavoro. Grazie mille a te Federico. Ci fermiamo, un Europost-it, un po' di pubblicità, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Europost-it. Sve in Olanda. Avete tra i 18 e i 30 anni e siete alla ricerca di un'esperienza internazionale? L'Associazione Scambi Europei propone un progetto Sve in Olanda nel campo del digital e design multimediale. La sede di lavoro sarà al cantiere navale del Batavirf a Lelystad, presso il quale il volontario selezionato dovrà osservare e documentare la ricostruzione di vecchie navi olandesi all'interno di un progetto di solidarietà per le persone che hanno perso il lavoro. Vitto e alloggio saranno inclusi nella borsa SVE. Le candidature dovranno essere inviate entro il 21 novembre seguendo le istruzioni indicate nella sezione Servizio Volontario Europeo in Olanda del sito scambieuropei.info. L'altra Europa. Ancora l'altra Europa, ancora buon sabato, ancora Senit dal vivo qui in studio a Radio 24. You were down 3 months ago, so tell me why you're feeling alone. Maybe you figured out that I was better than the rest of them, like I told you so on my birthday. Now you pick up the phone. Whatever you are, whatever you need, whatever you want these days, don't call me babe, don't call me. Whatever you are, whatever you need, anything you want these days, don't call me babe, don't call me. Whoa-oh-oh, whoa-oh-oh, whoa-oh-oh. No, I say don't call me babe, don't call me. Whoa-oh-oh, whoa-oh-oh, whoa-oh-oh. No, don't call me babe, don't call me. Brava Senit, ti piace, infatti dovevamo pensare agli applausi finti per far sentire la folla in studio, in effetti. Senit, abbiamo parlato, anticipato della tua tappa parigina, ma non abbiamo detto nel quando, nel dove. Nel dove, il 24 di novembre, prima tappa a Parigi al Club Jazz Étoile, che è un locale che è dentro l'albergo Le Méridienne. Perfetto. Quindi insomma dove presenterò questo bellissimo repertorio, tutto in inglese, anticipato appunto da queste piccole esibizioni che hai appena sentito, e che poi anticiperà l'album che uscirà appunto l'anno prossimo. E di solito il tuo pubblico sono anche italiani all'estero che ti seguono? Anche, però ci sono anche degli internazionali, insomma ci sono anche appunto degli europei. Ci sono anche dei ragazzi Erasmus che ti seguono? No, ma chissà, magari, chissà. Tu verrai? Io farò, adesso il mi possibile. Iscriverò all'università, farò l'Erasmus, aspetterò appunto la possibilità di poter partire anch'io e via. Ma forse sono un po' vecchiotto per fare l'Erasmus. Un po' vintage. Adesso lo chiediamo a Claudia Peritore. Ciao Claudia, ben ritrovata qui a L'Altra Europa. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti. Ciao Claudia. Claudia Peritore, ciao. Capo Unità per l'Istruzione Superiore dell'Agenzia Erasmus Plus in Dire, convocata oggi perché? Perché si è tenuta una 2 giorni all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, interamente dedicata all'Erasmus e in particolare alle novità per il 2017. Ci sono novità importanti in vista, Claudia? Esatto, questi 2 giorni sono stati 2 giorni intensi di lavoro per tutte le università, gli istituti di istruzione superiore italiani che partecipano al programma da sempre insieme all'Agenzia Indire, all'agenzia italiana e alle colleghe dell'agenzia di Bruxelles per presentare proprio le novità per il prossimo anno. È appena stato pubblicato dalla Commissione europea, infatti, l'invito a presentare proposte per il 2017. Sai che ogni anno nell'ambito del programma Erasmus Plus vengono definite priorità particolari, nonché anche chiaramente il budget e le scadenze per ogni anno. Ed in particolare vorrei sottolineare le novità per la mobilità degli studenti, che è il fiore all'occhiello del programma da sempre, nella dimensione internazionale più ampia, perché nel 2017 viene inclusa una nuova regione del mondo, perché il mondo Erasmus è diviso, diciamo così, in regioni per motivi chiaramente organizzativi, e dal 2017 sarà possibile per le nostre università stringere accordi bilaterali con università di paesi quali Iran, Iraq e Yemen. Vedremo che il successo che potrà avere questa nuova formula, ma è un segnale importante, perché le cooperazioni con le università sono un mezzo importante per la conoscenza, per lo sviluppo, per la cooperazione chiaramente. E questo prevedrà la possibilità quindi di avere mobilità di non solo studenti, ma anche di docenti, che potranno quindi essere invitati dall'Italia ad insegnare in istituti dei partner countries, oppure potremo avere chiaramente docente staff personale degli istituti degli altri paesi che potranno essere nelle nostre università a tenere lezioni. Quindi il 2017 sarà un anno nuovamente di sfida. Sì. Importante. Assolutamente, di nuovi confini. E Claudia, poi ricordiamo anche l'Erasmus legato ai tirocini, che ancora troppo poco si conosce e che è destinato ai ragazzi delle scuole superiori, non tanto giusto ai ragazzi dell'università. In realtà su questo ti correggo leggermente, perché il traineeship Erasmus, che è finanziato nell'ambito del programma, è destinato agli studenti laureandi o neolaureati, proprio per stringere ancora di più il legame che c'è tra il mondo universitario e il mondo del lavoro, chiaramente. Quindi è possibile prevedere un periodo di tirocinio in un'impresa all'estero. Questo è una dimensione del programma relativa ai paesi cosiddetti del programma, quindi paesi europei, sì. Compresa la Turchia, la Macedonia, la Norvegia, l'Islanda e Liechtenstein. Gli studenti possono svolgere un periodo di tirocinio in un'impresa all'estero per un minimo di 2 mesi, un massimo di 12 mesi, anche dopo aver conseguito il titolo della laurea, entro 12 mesi dal conseguimento del titolo. E è importante sapere che per impresa la definizione di impresa è veramente molto ampia, è considerata nel termine più ampio, perché per esempio per studenti dei nostri conservatori potrebbe essere un'impresa ospitante chiaramente un'orchestra, certo. O per gli studenti di architettura uno studio di architettura può essere un'impresa ospitante un tirocinio, quindi veramente ci sono molte sfaccettature offerte. Come sempre indire.it il portale per tutte le informazioni, un grazie come sempre a Claudia Peritore, ciao Claudia, buon lavoro. Grazie a te di nuovo, ciao anche a voi. Europost-it. Mattinate fai per le scuole. Attenzione, insegnanti e responsabili scolastici. Tornano le mattinate fai per le scuole. Da lunedì 28 novembre a sabato 3 dicembre, infatti, le delegazioni FAI di tutta Italia apriranno in esclusiva oltre 170 luoghi straordinari e poco conosciuti per una settimana di visite guidate. I tour saranno condotti da giovani apprendisti ciceroni che accompagneranno i coetanei delle scuole di ogni ordine e grado alla scoperta dei beni, in un'esperienza di educazione tra pari per la promozione della trasmissione orizzontale del sapere e per la partecipazione attiva degli studenti. Quest'anno collaborerà al progetto anche la rappresentanza regionale a Milano della Commissione europea. Per informazioni cercate la sezione Mattinate Fai sul sito faiscuola.fondoambiente.it. To be a different man, thou may change me, but I can't trace time. Yeah. I watch the ripples change the size. but never leave the stream of warm permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. A change of direction per una legislazione che protegga le vittime. Questo è il cuore di un incontro che si è tenuto giovedì 17 novembre presso il Parlamento europeo a Bruxelles. Quale legislazione, quale vittime? Ce lo spiega Andrea Franzoso, ex funzionario delle Ferrovie Nord, attivista e consulente di Riparte il Futuro. Buongiorno Andrea, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. La tua storia l'abbiamo conosciuta, l'abbiamo letta sui giornali. Vuoi farci tu un breve riassunto? Sì, la mia vicenda è iniziata lo scorso anno quando ho segnalato alcune irregolarità nelle spese dell'ex presidente delle Ferrovie Nord. Uh-huh. E, successivamamente, visto che la segnalazione che ho fatto internamente aveva trovato alcune opposizioni, ho sporto una denuncia ai carabinieri, da cui poi è partita un'indagine che ha portato poi al rinvio a giudizio dell'allora presidente delle Ferrovie Nord. E a seguito di ciò io poi sono stato trasferito ad un nuovo incarico e ora non lavoro più alle Ferrovie Nord, siamo in rapporto di lavoro per siamo arrivati a una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, visto che non c'erano più le condizioni per continuare a lavorare lì. Lo rifaresti? Lo rifarei, certo che lo rifarei. Io sono contento di aver fatto ciò, era necessario, e quindi sì, sicuramente lo rifarei. Nessun rimpianto. Andrea, e oggi sono impegnato. Sì. No, esatto. No, ti chiedevo un minuto di pazienza, così ci fermiamo, diamo le informazioni per il traffico e poi ci racconti cosa è successo a Bruxelles. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta l'Altra Europa. Eccoci qua, l'Altra Europa con Andrea Franzoso. Allora Andrea, cosa avete chiesto a Bruxelles? Ecco, a Bruxelles si è tenuto appunto giovedì un incontro promosso da varie NGO impegnate nella lotta alla corruzione. Per l'Italia c'era Riparte il Futuro, e promosso poi anche dal gruppo Alleanza Progressista e Socialisti Democratici e dall'intergruppo parlamentare Integrità, Trasparenza e Corruzione, la cui co-presidente è un'italiana, tra l'altro, l'europarlamentare Ellie Schlein, che ha ospitato l'evento al Parlamento Europeo. E nel corso di quella giornata abbiamo presentato il progetto A Change of Direction, che è un progetto internazionale di ricerca e advocacy che è cofinanziato dalla Commissione europea ed è finalizzato a proteggere i whistleblower e a lavorare per promuovere una direttiva europea per la tutela e la creazione anche di canali sicuri di segnalazione per favorire quel whistleblower e tutelare i whistleblower. Andrea, quando si parla di sì. Protezione, quando si parla di tutela, in pratica cosa chiedete? Chiediamo innanzitutto che i whistleblower non subiscano ritorsioni, trasferimenti, demansionamenti, perché inevitabilmente, questo ce lo dicono i vari fatti di cronaca che spesso abbiamo letto sui giornali, di cui anch'io sono testimone, e oltre a me c'erano altri due testimoni, una whistleblower spagnola e un croato, e succede che le persone che hanno denunciato corruzione o malaffare o altri fatti e subiscano appunto situazioni spiacevoli, appunto ritorsioni, trasferimenti e così via. E quindi diciamo vari ordinamenti nazionali già prevedono alcune protezioni minime. Ovviamente la normativa nei diversi paesi è molto frammentaria, ci sono alcuni paesi che hanno diciamo già una legislazione buona, penso al Regno Unito. Ci sono dei paesi che non hanno alcuna protezione e altri, come l'Italia, che hanno una protezione parziale, che è per ora limitata al pubblico impiego, grazie alla legge Severino. Uh-huh. E, 4 maggio scorso, tra l'altro, un gruppo, l'Europarlamento, il gruppo dei Verdi, ha presentato una bozza di direttiva europea e il tema oggi è d'attualità e tra l'altro anche recentemente ci sono state le prese di posizione forti già all'interno sia della Commissione europea sia anche del Parlamento europeo, qualcosa si sta muovendo. Certo. E poi c'è comunque l'opinione pubblica che è sempre più sensibile al tema. Recentemente anche un gruppo di sindacati europei e di NGO ha anche promosso una piattaforma per appunto per richiedere con forza un intervento dell'Europa per arrivare presto, diciamo, alla direttiva europea. Quindi tutela, quindi protezione, sì. Quindi avere canali anche per fare questa canali segnalazione. Ricordiamo che insomma, il whistleblower è chi cerca di portare alla luce, no, illeciti di cui è venuto a conoscenza. E tu sei venuto a conoscenza anche di varie culture europee con l'attività che stai facendo ora di militanza, sì. Chiamiamola così. Ci sono culture... Attivismo scusami. Riparte il futuro. E ci sono approcci diversi anche dai diversi stati, dalle diverse culture europee. Certo. Una cosa che volevo sottolineare, perché lei poco fa diceva, parlava di whistleblowing legandolo alla segnalazione di illeciti, non soltanto illeciti. Se pensiamo al caso di LuxLeaks, che ha riguardato Antoine Deltour, sì. Che ha portato allo scoperto, rivelando ai media, tutta una serie di accordi fiscali fra il Lussemburgo e una serie di multinazionali, ecco, in quel caso lì, diciamo, questi accordi erano perfettamente leciti, tuttavia è evidente che fossero contro un interesse europeo che si sta costituendo. Ed è forse su questo punto che bisogna ragionare e ecco, porre l'attenzione. La necessità di arrivare ad una direttiva europea è anche dovuta al fatto che le varie legislazioni nazionali non sono da sole in grado di tutelare un interesse europeo. Certo. E quindi ecco, una direttiva potrebbe meglio, diciamo, offrire una migliore garanzia, una migliore tutela, sicuramente più omogenea e, diciamo, uniforme in diversi paesi ai whistleblower. Serve una risposta organica a un problema complesso, come ben sai e ben avete evidenziato. Riparteilfuturo.it, sì. Questo è il sito per conoscere l'intera attività. Avete avuto una buona risposta, sì, da questo incontro a Bruxelles? Abbiamo avuto una buona risposta, sì. Comunque siamo ottimisti perché davvero l'interesse sta crescente. Sicuramente sta cambiando anche un paradigma culturale. Oggi stiamo andando verso un controllo diffuso. I cittadini sempre più riconoscono, ecco, la necessità di appunto di proteggere, di tutelare appunto chi segnala episodi appunto di malaffare. Certo. e non solo malaffare. Grazie e, Andrea, scusami, sì, non ho prego. Appunto, un'ultima cosa importante, appunto anche in Italia siamo impegnati appunto per chiedere che il Parlamento intervenga e adotti presto una legge a tutela dei whistleblower, e a tal fine che invito di andare appunto sul sito di Riparte il Futuro e di sostenere la campagna che abbiamo lanciato qualche mese fa. Ottimo, grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. Buon lavoro, ciao Andrea. Ciao, ciao, ciao. Andiamo a chiudere questa puntata dell'Altra Europa. Un grazie a tutta la squadra, un grazie a Miriam Lucchetti e a Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata, Claudia Scatone oggi in assistenza, Valeria Bernardi invece alla parte tecnica e poi la musica dal vivo, Senite che ci ha accompagnato, un grazie anche a Lele Leonardi. Ricordiamo senite.com, il portale per tutte le informazioni, vedere i video, trovare le date, insomma qualunque cosa, anche perché abbiamo capito che l'attività di Senite è in forte fermento, questa cosa esatto, ci piace. Senite, con cosa chiudiamo? Chiudiamo con Something on Your Mind. Perfetto. Grazie mille Federico e a presto. A voi. If there's something on your mind, thinking all the time, baby. Can you tell me, can you try, thinking all the time, lately, yeah. If there's something on your mind, baby. If there's something on your mind, thinking all the time, baby, yeah. You know I need you. I feel as handy, so you need to make me feel it. We need to take it to the time where things were better. Cause things are breaking down and I don't wanna quit it. You know, you know, you know, you know, you know I need ya. We gotta sort this out cause I don't wanna leave ya. We need to take it to the time where things were better. Remember when I was the light of your life. If there's something on your mind, thinking all the time, thinking all the time, baby. Can you tell me, can you try, thinking all the time, baby, yeah. If there's something on your mind, thinking all the time, thinking all the time, baby. Can you tell me, can you try, thinking all the time. La chitarra è quella di Lele Leonardi, la voce è quella di Sennit. Questa è l'altra Europa, ancora buon sabato. Grazie. Da Federico Taddia. Ciao!